Bibbia Martini, primo libro dei re. Due Davide, dopo aver dati diversi documenti a Salomone, muore. Adonia, che chiedeva Abisag per sua consorte, avendo con tal frode tentato di giungere al trono, è fatto uccidere da Salomone. Abiatar è privato del sacerdozio, e finalmente Joab è ucciso nel tabernacolo. Semei, perché 3 anni dopo era uscito da Gerusalemme contro il divieto del re, anche egli è ucciso. Frattanto, avvicinandosi per Davide il dì della morte, diede egli questi ordini a Salomone suo figliuolo, e disse: «Io sto per giungere al termine comune di tutti gli uomini, armati di fortezza, e di petto virile, e osserva i precetti del Signore Dio tuo, camminando nelle sue vie, mettendo in pratica le sue cerimonie, e i comandamenti, e le leggi, e gli insegnamenti, come sta scritto nella legge di Mosè, affinché qualunque cosa tu facci, e in qualunque parte ti volga, tu operi con saggezza. Affinché il Signore confermi le parole dette da lui in mio favore, quando disse: se i tuoi figliuoli vogheranno sopra i loro andamenti, e cammineranno dinanzi a me nella verità con tutto il cuore, e con tutta l'anima loro, non resterà mai il soglio di Israele senza uno dei tuoi, che vi segga. Tu pur sai quello, che fece a me Joab figliuolo di Sarvia, e quello, che i fece ai due principi dell'esercito di Israele, Abner figliuolo di Ner, e Amasa figliuolo di Geter, i quali egli ammazzò, spargendo in tempo di pace il sangue, come si fa in guerra, e avendone macchiata la bandoliera, che aveva ai suoi fianchi, e le scarpe, che aveva ai piedi. Tu farai adunque secondo la tua saggezza, e non aspetterai, che la sua vecchiaia lo meni tranquillamente al sepolcro. A figliuoli poi di Berzellai galadite mostrerai riconoscenza, e mangeranno alla tua mensa, perocché mi vennero incontro, quando io fuggiva dalla presenza di Assalonne tuo fratello. Tu hai ancora presso di te Semei figliuolo di Gera, figliuolo di Gemini di Baurim, il quale vomitò contro di me orrende maledizioni, quando io andava agli alloggiamenti. Ma perché egli venne ad incontrarmi, quando io ripassai il Giordano, io gli feci giuramento pel Signore, e dissi: non ti farò morire di spada, tu non permettere che resti impunito il suo peccato. Or tu sei saggio per conoscere quel che tu debba fargli, e vecchio com'è, lo farai scendere nel sepolcro con morte violenta. Davide adunque andò a riposare co' padri suoi, e fu sepolto nella città di David. La durata del regno di Davide sopra Israele fu di 40 anni. In Ebron regnò 7 anni, in Gerusalemme 33. E Salomone succedette nel trono di Davide suo padre, e il suo regno fu stabilmente assicurato. Ma Adonia figliuolo di Aggit andò a trovar Betsabea madre di Salomone, la quale gli disse: «Se tu è portator di pace?» Ed egli rispose: «Io porto pace». E soggiunse: «Ho da parlare con te». E quella rispose: «Parla». Ed egli: «Tu ben sai», disse, «come mio era il regno, e come tutto Israele mi avea preeletto per suo re, ma il regno è stato trasferito, e fatto passare al mio fratello, perocché a lui è stato dato dal Signore. Or io una sola preghiera fo a te, tu non rigettarla». Ed ella gli disse: «Parla». Ed egli disse: «Io ti prego di dire al re Salomone, che mi dia per moglie Abisag Sunamite». E Betsabea disse: «Bene sta, io parlerò al re in tuo favore». Betsabea pertanto andò a trovare il re Salomone, per parlargli in favor di Adonia, e il re si alzò, e le andò incontro, e se le inchinò, e si pose a sedere sul suo trono, e fu posto un trono per la madre del re, la quale si assise alla sua destra. Ed ella gli disse, «Una piccola grazia ho da domandarti, tu non mi fare arrossire». E il re le disse, «Chiedi pure, madre mia, peroché non è dovere ch'io ti disgusti». Ed ella disse, «Diasi Abisag Sunamite per moglie ad Adonia tuo fratello». Ma il re Salomone rispose, e disse alla madre, «Perché mai domandi tu Abisag Sunamite per Adonia? Chiedi per lui anche il regno, peroché egli è mio fratello maggiore, e ha dalla sua Abiatar sacerdote, e Joab figliuolo di Sarvia». E il re Salomone giurò per il Signore, e disse, «Il Signore faccia a me questo, e peggio, se i non è vero, che in danno della sua propria vita ha proferite queste parole ad Onia. E ora, viva il Signore, il quale mi ha confermato, e collocato sul trono di Davide mio padre, e affondata la mia casa, conforme avea promesso, oggi Adonia sarà ucciso». E il re Salomone diede l'ordine a Banaia figliuolo di Ioiada, il quale lo uccise, così morì Adonia. E ad Abiatar sacerdote disse il re, «Vattene in Anatot al tuo podere, veramente tu sei degno di morte, ma io oggi non ti farò morire, perché portasti l'arca del Signore Dio dinanzi al padre mio Davide, e fosti a parte di tutti i travagli, che sofferse mio padre». Così Salomone discacciò Abiatar, perché non fosse più sommo sacerdote del Signore, affinché fosse adempiuta la parola detta dal Signore in Silo contro la casa di Eli. Or questa nuova fu portata a Joab, il quale avea seguitato il partito di Adonia, e non quello di Salomone. Joab pertanto si rifugiò nel tabernacolo del Signore, e si attaccò al corno dell'altare. E fu riferito al re Salomone, come Joab si era rifugiato nel tabernacolo del Signore, e si stava presso all'altare. E Salomone mandò Banaia figliuolo di Ioiada, e dissegli, «Va, e uccidilo». E Banaia andò al tabernacolo del Signore, e disse a Joab, «Il re dice, che tu venga fuora». E quegli rispose, «Non verrò, ma qui mi morrò». E Banaia riferì, e disse al re, «Questo, e questo mi ha detto», e risposto Joab. E il re gli disse, «Fa tu, come egli ha detto, e uccidilo, e dagli sepoltura, e così laverai me, e la casa del padre mio dal sangue innocente, che fu sparso da Joab. E il Signore farà cadere sulla testa di lui il sangue, che egli sparse, avendo egli uccisi due uomini giusti, e migliori di lui. Abner figliuolo di Ner capo delle milizie d'Israele, e Amasa figliuolo di Geter capo dell'esercito di Giuda. E il loro sangue cadrà sulla testa di Joab, e sopra quella dei suoi discendenti in eterno. Ma Davide, e la stirpe di lui, e la sua casa, e il suo trono abbia eterna pace dal Signore». E Banaia figliuolo di Ioiada andò, e lo assalì, e lo uccise, e fu sepolto in casa sua nel deserto. E il re fece in luogo di lui capo dell'esercito Banaia figliuolo di Ioiada, e costituì sommo sacerdote Sadoc in luogo di Abiatar. E il re fece parimente chiamare Semei, e dissegli, «Fatti una casa in Gerusalemme, e fa qui tua dimora, e non partirne per andare qua, o là. Ma la prima volta, che uscirai, e passerai il torrente Cedron, sappi, Cienne e tu sarai ucciso, il tuo sangue cadrà sopra la tua testa». E Semei disse al re, «Questo parlare è giusto, come ha ordinato il re signor mio, così farà il tuo servo». Semei adunque dimorò assai tempo in Gerusalemme. Ma di lì a tre anni avvenne, che gli schiavi di Semei si fuggirono presso Achis figliuolo di Maacha re di Ghet e fu riferito a Semei, come i suoi servi erano in Ghet. E Semei si mosse, e fatto apparecchiare il suo asino, andò a trovare Achis in Ghet, per ridomandare i suoi schiavi, e riminolli da Ghet. E fu riferito a Salomone, come Semei era andato da Gerusalemme a Ghet, ed era tornato. E mandò a chiamarlo, e gli disse, non ti giurai io per il Signore, e non predissi, ogni qualvolta tu uscirai per andare in questa, o in quella parte, sappi, che sarai messo a morte? E tu mi rispondesti, questo parlare, che io ho ascoltato, egli è giusto. Per qual motivo adunque hai trasgredito il giuramento fatto al Signore, e il comandamento, ch'io ti feci? E il re disse a Semei, è noto a te tutto il male fatto da te a Davide padre mio, del qual male è consapevole a se stessa la tua coscienza. Il Signore ha fatto cadere la tua malvagità sopra la tua testa. Ma il re Salomone sarà benedetto, e il trono di Davide sarà stabile in eterno dinanzi al Signore. Il re adunque ordinò a Banaia figliuolo di Ioiada, di andare ad ucciderlo. E quegli morì. Note, 2,5, tu pur sai quello, che fece a me Gioabe ci rammenta Davide la uccisione del figliuolo a Salonne, l'arroganza con la quale trattò lui stesso, e le minacce di voltargli contro tutto Israele, e quello, che di fresco aveva fatto lo stesso Gioabe in favor di Adonia, indi la morte di Amasa, e quella di Abner uccisi a tradimento, delle quali cose non aveva potuto Davide finora far render conto a quell'uomo malvagio e potente. Davide doveva anche temere, che lo stesso Joab sotto il giovane re Salomone, a cui si era già dimostrato contrario, non si muovesse a turbare lo stato. Quindi prima di morire pronunzia contro l'uomo micidiale in sentenza di morte, e ne raccomanda al figlio l'esecuzione. Davide lasciava Israele in perfetta tranquillità, e Salomone pacifico possessore del regno, onde non era difficile allo stesso Salomone il togliere dal mondo Joab, il quale non era da temersi se non in occasione di turbolenza e di guerra. 2,8. Io gli feci giuramento e ci Davide avea soddisfatto alla sua bontà e clemenza, dimenticando le ingiurie fatte alla sua propria persona, soddisfa alla giustizia, raccomandando al figliuolo di non lasciare senza il debito castigo simili eccessi. 2,9. Tu sei saggio e C.S. Girolamo, S. Ignazio M., Eusebio e molti interpreti han creduto, che Salomone avesse al più 12 anni, quando succedette a Davide, ma generalmente i cronologi lo fanno di 19 in 20 anni. 2,10. E fu sepolto nella città di Davide. Il suo sepolcro vedevasi a tempi degli apostoli, Atti 2,29, e a tempo di S. Girolamo, il quale vi andava spesso a far orazione, episodio. Ad Marcel. L'elogio di questo re più grande ancora per la pietà, che per le imprese guerriere, sia nell'Ecclesiastico XLVI. Io mi restringo a toccar brevemente due sole cose riguardo a questo re, perché el sono particolarmente di importanza per nostri cristiani. Egli non solo fu profeta, ma fu tra tutti i profeti quello, che più specialmente e individualmente può dirsi il profeta di Cristo e della sua Chiesa. Egli non solamente in diversi avvenimenti della sua vita una viva immagine del Messia suo figliuolo secondo la carne, ma i misteri di lui e della sua chiesa descrisse e colori a parte negli ammirabili suoi cantici, de quali cantici, le testimonianze furono citate sovente da Cristo medesimo e dagli apostoli alla nazione ebrea. Ma quanto è glorioso per questo re profeta l'uso continuo, che degli stessi cantici fa la Chiesa, la quale dal suo divino sposo e maestro imparò a non avere, per così dire, altra voce per esprimere a Dio la sua gratitudine, i suoi affetti, le sue lodi, i suoi desideri, i suoi timori, il suo amore, le sue speranze. Imperché il libro dei Salmi di Davide non solamente contiene tutta la storia della sinagoga, ma con divino artificio delinea tutti quanti e i misteri e gli avvenimenti e i diversi stati della Chiesa di Cristo, onde Davide sia riguardo alla medesima Chiesa il profeta di tutti i tempi, e il maestro della vera pietà per tutti i fedeli, a quali insegna a conoscere le grandezze di Dio, e soprattutto la sovreminente di Lui carità nell'aver dato al mondo quel Salvatore, che è il perpetuo obietto di tutti i suoi salmi. 2,16. Una sola preghiera ecito odoreto e molti altri interpreti credono, che ad istigazione di Joab facesse Adonia la richiesta di avere per moglie la Sunamitide, lo che era come un passo verso il trono. Abisag era stata moglie di Davide, ma non era stato mai consumato il matrimonio, onde Adonia non peccava contro la legge, che vieta il matrimonio del figliastro con la matrigna, Levit. 18,7. Tale è il sentimento di molti dotti interpreti, altri però condannano Adonia per avere aspirato a un tal matrimonio, il quale veramente sembra che in qualunque caso offenda l'onestà naturale. 2,22. Chiedi per lui anche il regno, ic. La richiesta di avere per moglie una moglie del re tende a facilitargli il conseguimento del trono. Egli è maggiore di età, ha in suo favore l'aura popolare, l'amicizia di Joab e di Abiatar. Se gli diamo per moglie una regina cara al popolo per la sua avvenenza e per le sue doti, egli non ha bisogno di altro per farsi re. 2,24. Oggi Adonia sarà ucciso. Notisi che questo non era il primo peccato di Adonia, era una seconda caduta, e tanto peggiore, perché ora dopo il perdono della prima. Salomone tardando a punire Adonia esponeva lo Stato a una guerra civile, onde non può condannarsi di precipitazione la sua sentenza. 2,26. Vattene in Anatot al tuo podere. Anatot era città sacerdotale. Non si sa se il podere che aveva presso quella città il pontefice Abiatar fosse venuto a lui, o al padre da qualche fanciulla erede, e di altra tribù, sposata dall'uno, o dall'altro, ovvero lo avesse comperato. Vedi Jerem. XI, 7. Notisi che Salomone non priva Abiatar del sacerdozio, e nemmeno del sommo pontificato. Ma in pena di aver cospirato in favore di Adonia lo manda a sua casa ad Anatot, e così lo priva dell'esercizio dei pontificato, e delle entrate annesse a quella dignità. Vedremo infatti che Abiatar continua ad essere riguardato come sommo sacerdote, capitolo 4, 1. Avendo Salomone allontanato Abiatar, restò solo all'esercizio del sommo sacerdozio Sadoc, onde alla famiglia di Eleazar tornò il pontificato, rigettata la famiglia di Itamar e di Eil, come avea predetto Samuele. 1. Ragioniere secondo, 2. Così Salomone fu in questo l'esecutore della sentenza pronunziata da Dio contro Eli e i suoi discendenti. 2,31. Fa, tu, come egli ha detto. Joab avea detto, qui mi morrò. Salomone adunque ordina che nello stesso luogo Banaia lo uccida. Joab reo di due omicidi volontari e proditori, e di più reo di ribellione contro del proprio sovrano, non potea godere dell'asilo dell'altare, ma secondo la legge dovea essere strappato dell'altare, e ucciso, Exod. 21,14. Salomone crede che se l'estrazione violenta di tali rei dall'altar del Signore era permessa da Dio, potesse essere ancor permesso di ucciderli nel medesimo luogo, senza mancare al rispetto dovuto allo stesso altore. Alcuni hanno creduto che Banaia lo facesse tirar dall'altare e lo uccidesse, ma le parole del testo sacro non danno luogo a questa interpretazione. Fa dopo di confessare che se Salomone riguardo a un tal re oltrepasso le regale ordinarie, poté essere scusato dinnazi a Dio, il quale volle nella rovina di quest'uomo famoso per i suoi talenti e pel valor militare, ma di genio torbido, superbo e crudele, far conoscere agli uomini, come tutte le doti e le qualità naturali e acquisite, ove siano scompagnate dalla pietà e dalla vera virtù, sono più atte a strascinare l'uomo nel precipizio, che a farlo veramente grande e felice.